Mezzino di sul divano con un joint in mano. Tu mi hai chiesto piano da quanto scoppiamo. Fuori c'è già il sole, penso 3-4 ore. Sembra che le pare così le scordiamo. Sì, ma non ti dico ti amo, se non va a finire che poi ci scottiamo. Già successo e ce lo ricordiamo. Non ci penso, fumo e non mi sento mezzo cranio. Ci siamo già fatti, sì, fatti di brutto. Sì, ci siamo fatti di tutto ogni notte. Matti, martiri in punto di morte. Sì, chi se ne fotte degli altri ne sanno ben poco. Ridono, fanno le foto. Io per una notte con te mi do fuoco, butto giù le porte, mi lancio nel vuoto anche se siamo soli. Siamo soli anche se siamo insieme, linee vicine però parallele. Non ci pensare, dai porta da bere, che tanto lo sai che ho sempre l'occhio spento. E un cuore nel petto ma lo sento a stento, per questo me lo tengo stretto. Non sono mai troppo contento, fumo amico del momento. Fumo amico del momento. Non faccio più piani, non penso a domani. Fumo amico del momento. Non faccio più piani, non penso a domani. Fumo amico del momento. Fumo amico del momento. Fumo amico del momento. Fumo amico del momento. Fumo amico del momento. Fumo amico del momento. Fumo amico del momento. Me l'accendo e penso a lei. Finché vado imparo ogni problema non diventa in mezzo. Lei è come un buco nero, spero non mi metta in mezzo. Dalla gioia vado in paranoia, sempre senza senso. Dicono che è troppo che non esco. Mi danno per morto, per disperso. Chiedono perché non sto con loro. Sto sempre da solo, sempre un po' depresso. Da quanto non sento i miei. Da quanto non dico grazie, non rispondo prego. Da quanto ripeto che anche se mi piego però non mi spezzo. Da quanto non esco faccio che ci credo, poi ogni volta ci ripenso. Me li sbatto al cazzo, la fama è il successo, do che non mi tiri in mezzo. Sta merda so che è uno scherzo, ma sembra bella lo stesso. Finché vai troppo veloce si stacca lo sterzo. Amico del momento. Fumo amico del momento. Non faccio più piani, non penso a domani. Fumo amico del momento. Non faccio più piani, non penso a domani. Fumo amico del momento. Fumo amico del momento. Fumo amico del momento. Fumo amico del momento. Fumo amico del momento. Fumo amico del momento. Fumo amico del momento. Fumo amico del momento. Fumo amico del momento. Non faccio più piani, non penso a domani. Fumo amico del momento. Non faccio più piani, non penso a domani. Fumo amico del momento. Fumo amico del momento. Fumo amico del momento.